generation. It's talking about my generation. My generation. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Il banchetto l'abbiamo montato, i CD li trovate contattando lui. Non è vero. I CD in macchina, come Eminem? Sta smontando questo, non è più punk. Si sta smontando, ciao. No, perché tardi, veramente, grazie. Ciao, ciao.